2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 22 e 23 marzo 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Abbiamo bisogno di alfabetizzazione digitale e siamo qui anche per questo, grazie soprattutto ai nostri esperti e anche, devo dire, agli ascoltatori che ci suggeriscono temi settimana dopo settimana. A proposito di suggerimenti, potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it oppure sfruttando i social network, in particolare Twitter o Facebook. Ma soprattutto per quanto riguarda Twitter, a volte i 140 caratteri non sono sufficienti. Molti esperti e molte ricerche indicano perdite milionarie e direi invece miliardarie per le aziende americane dopo lo scandalo NSA, quello che in Italia abbiamo bollato come Datagate. Allora, il motivo è questo: di fronte alle rivelazioni di Edward Snowden, che non hanno conferme ufficiali naturalmente, quindi dobbiamo fidarci di quello che ci dice, molte aziende si interrogano sulla sicurezza dei dati affidati alle società high-tech americane. Va detto che tutti i grandi paesi spiano e continueranno a spiare, e quindi nonostante le dichiarazioni di facciata, quindi le preoccupazioni non sono molto fondate. Comunque è importante, l'abbiamo detto tante volte, proteggere i dati, e se uno lo fa le cose fatte bene, per quanto riguarda la protezione dal normale cybercrime, dallo spionaggio digitale, beh, insomma, si può stare abbastanza tranquilli. Contro la NSA direi che c'è poco da fare. La capacità di calcolo, la capacità della National Security Agency americana è un po' quella dell'esercito americano. Di fronte all'esercito americano uno può cercare di fare la battaglia, però non sempre si riesce a vincere. Tuttavia gli Stati Uniti cercano, almeno dal punto di vista digitale, di rifarsi l'immagine. Obama ha chiamato a cena i capi delle grandi aziende della Silicon Valley e comunque delle grandi aziende tecnologiche americane per fare il punto sulla riforma della National Security Agency. Nel frattempo, chi fa i conti sulle perdite dice che le rivelazioni di Snowden potrebbero costare all'industria, soprattutto a quella del cloud americana, 16 miliardi di dollari entro il 2016. Altri, come Forrester Research, si spingono fino addirittura a 180 miliardi di dollari, ovvero il 25% dei ricavi del settore. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da due notizie che arrivano da Bruxelles, anzi tre notizie che arrivano da Bruxelles. La Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia dell'Europarlamento ha approvato una serie di norme sulle telecomunicazioni che eliminerebbero le tariffe di roaming nei paesi europei, 28 paesi europei, entro il 15 dicembre 2015. Ora il testo dovrà essere esaminato dal Parlamento europeo nella seduta del 3 aprile, poi ci sarà l'esame del Consiglio europeo, quindi non è detto che questa data verrà rispettata. Altro provvedimento riguarda la neutralità della rete internet, tema estremamente importante. Il testo approvato dalla Commissione dice che gli operatori devono trattare il traffico senza discriminazione, quindi parliamo di chi ci fornisce il collegamento ad internet, senza restrizioni o interferenze, indipendentemente da chi invia o riceve il contenuto trasmesso su internet, o nessuna discriminazione nemmeno in base al tipo, al contenuto, al terminale, al servizio o l'applicazione. Sul testo c'è però uno scontro su alcune parole che potrebbero dar adito a interpretazioni diverse, e quindi vedremo se nella seduta plenaria del 3 aprile ci sarà qualche cambiamento. Il direttore di Europol, Rob Wainwright, ha detto che le forze di polizia non riescono a tenere il passo dei criminali sui reati informatici perché nel mondo virtuale non si vedono attribuire gli stessi poteri che hanno nel mondo reale per contrastare le maggiori frodi, gli abusi sessuali sui minori o altre forme di crimini internazionali. Secondo uno studio diffuso da Microsoft, sarebbero 315 miliardi di dollari in tutto il mondo il costo a carico delle imprese derivanti dai crimini informatici. Google ha lanciato in settimana Android Wear, un sistema operativo semplificato e pensato per i dispositivi indossabili, a cominciare dai più noti ormai famosi smartwatch. I primi modelli compatibili, cioè che utilizzeranno questo sistema operativo, saranno il Motorola Moto 360 oppure l'LG G-Watch. Nella stessa settimana Pebble, che è sicuramente il più famoso e uno dei primi smartwatch che sono stati messi sul mercato, ha annunciato che il proprio prodotto ha venduto fino a 400.000 unità, quindi un vero e proprio successo, e direi che forse al momento è l'unico successo, nonostante altre aziende abbiano lanciato i propri smartwatch, come ad esempio Samsung, che ci punta molto, ma nessuna di queste grandi aziende ha avuto successo. Invece Pebble, che è una piccola azienda che è partita da un progetto finanziato online dal pubblico, ha fatto un vero successo e i profitti sono arrivati a quota 60 milioni di dollari. Contrariamente alle indiscrezioni, Huawei non produrrà nessuno smartphone con dual boot, cioè con a bordo sia Android che Windows Phone, e uno potrebbe scegliere se usare un sistema operativo o l'altro. Sia Microsoft che Google non vogliono essere a bordo di uno stesso terminale contemporaneamente. Lo vogliono tutto per sé. L'ultima notizia riguarda la musica digitale. È stato pubblicato, come sempre molto interessante, il rapporto sulla musica della Federazione Internazionale dell'Industria Discografica. Un rapporto che trovate anche online, ricco di dati molto interessanti. Il dato più interessante per i temi di cui parliamo 2024 è che il mercato della musica digitale cresce, spinto soprattutto dai nuovi servizi di streaming, che in tutto il mondo hanno segnato una crescita del 51% tra il 2012 e il 2013. Ci sono oggi 28 milioni di persone nel mondo che usano questi servizi, quindi sono abbonate e pagano per questi servizi, che valgono il 19% della musica digitale online. Quindi se prendiamo solo la musica digitale, quella liquida, sono il 19% questi abbonamenti ai servizi di streaming. Il 67% invece è ancora la quota conquistata dal download di musica, quindi acquistata, cosa un po' diversa. E comunque, in generale, se guardiamo al mercato della musica, la musica liquida vale per circa il 40% dei ricavi, poco meno. Il disco fisico vale ancora il 51%, quindi c'è ancora un sacco di gente che compra il disco fisico. Questi sono dati mondiali. Bene, a questo punto noi parliamo di TV e internet. Abbiamo parlato negli ultimi anni molto, abbiamo speso molte parole sulle smart TV. Questo è un concetto che di fatto porta e avvicina i due mondi, porta internet sul televisore di casa e avvicina il concetto tradizionale di prodotto televisivo con il mondo di internet. Questa settimana Google ha portato anche in Italia un prodotto, un piccolo prodotto che si chiama Chromecast, che di fatto si inserisce in questo filone, portare internet sul televisore di casa. Allora, questa settimana ha provato Chromecast Luca Salvioli della redazione online del Sole 24 Ore. Luca, bentornato a 2024. Ciao Enrico, grazie. Tu hai provato per molte, sei stato tutta la settimana, come vedi, ho gli occhi rossi, esatto. Non sono riuscito a staccarmi davanti al televisore per provare Chromecast. Allora, diciamo subito che cos'è: è una piccola chiavetta USB che però c'è qualche cosa dentro. Ha esattamente la forma di una chiavetta USB, le dimensioni più o meno sono quelle, e si attacca a una TV con porta HDMI e la rende smart. Tu dicevi ci sono le smart TV, che sono quelle già connesse a internet con all'interno applicazioni e la possibilità quindi di utilizzare anche un browser. Nell'altro caso, TV che hanno solo questa porta HDMI, inserisci questa chiavetta e entri nel mondo di internet per come è possibile viverlo in TV. Esatto, comunque la puoi collegare a tutte le TV che hanno una porta del genere, ormai tutte praticamente. Esatto, quindi anche se uno è già smart TV diventa un po' più smart. Esatto, diciamo esatto. Così. Senti, perché se ne è parlato molto? Allora, diciamo che questa in assoluto non è, diciamo, una novità, è una novità per il mercato italiano, era una cosa che già era disponibile negli Stati Uniti. Era disponibile negli Stati Uniti dallo scorso luglio, secondo me la più grande innovazione, che costa 35 euro, che ne fa uno degli oggetti tecnologici più low cost nella storia della tecnologia. Il vantaggio è che è molto semplice da utilizzare, la configurazione è molto veloce, lo attacchi alla TV, scarichi l'applicazione sul telefonino, che sia un iPhone o che sia un Android, per il momento sono esclusi i telefoni di Windows, e a questo punto, un'operazione che richiede molto poco tempo, puoi utilizzare tutta una serie di applicazioni compatibili con Chromecast. Per adesso c'è poco di contenuti e questo è il limite, ci sono ad esempio i film di Google Play, la musica di Google Play e i video di YouTube. Come funziona? Vai sull'applicazione, clicchi un piccolo tasto di trasmissione che trasmette direttamente in TV quello che stai guardando sullo smartphone, quindi o tablet o PC. Quindi lo smartphone lo usi come telecomando? A quel punto lo smartphone diventa l'unico telecomando che puoi utilizzare, ma la cosa bella rispetto ad altre soluzioni è che puoi fare altro. Una volta che viene trasmesso il link alla televisione, quindi parte la visualizzazione del video del film, sullo strumento che stiamo usando possiamo fare altro, possiamo andare a vedere il sito di news, eccetera, eccetera. Quindi allora gli ingredienti sono avere un collegamento a internet, avere un televisore con la porta HDMI, prendere questa piccola chiavetta e il vantaggio è vedere contenuti che vanno oltre a quelli che io posso vedere sul digitale terrestre, su internet normalmente, oppure su satellite, insomma, contenuti aggiuntivi. Sì, esatto. Quello che manca al momento, diciamo che utilizzandolo con un PC o con un Mac attraverso il browser Chrome, si può vedere esattamente tutto quello che stai facendo sul PC, sulla TV, il famoso mirroring del browser. Come dice, vabbè, qual è l'utilità? Però? No, l'utilità sarebbe che se io ad esempio, visto che c'è una enfasi ovviamente sui film in streaming, che è un po' il tema del momento, no? L'offerta di Infinity, di Mediaset, il presunto arrivo di Netflix nei prossimi mesi. Che lancia la prossima settimana. Esatto, eccetera. C'è molto fermento. Sì, sì, sì. Solo che queste app non sono ancora pronte per Chromecast, quindi per vederle sulla TV dovrei passare dal browser sul mio PC. La trasmissione però ancora non funziona perfettamente. Chromecast farà un salto di qualità se riuscirà a integrare tutta questa serie di applicazioni per i film in streaming. 35 euro e poi i contenuti sono gratuiti o sono a pagamento? Sono a pagamento, per dire, i film su Google Play hanno una politica dei prezzi molto simile ad iTunes. Anche YouTube, in realtà noi siamo abituati al video del gattino, ma sta diventando a canali tematici, insomma ha un'offerta che sta diventando un po' più interessante. Sì, negli Stati Uniti c'è già qualche canale, qualche contenuto a pagamento su YouTube ed è comunque, come dire, facile prevedere che anche qui sarà così. Esatto. Però probabile. Ma i contenuti ci sono o sono ancora pochi? Contenuti sono ancora pochi, questo è il limite. In assoluto questo è il problema che c'è su tutto lo streaming di film con la TV in questo momento. C'è una questione di diritti, di licenze, no? Per come funzionano adesso le licenze dei film in Italia, sono avvantaggiate le offerte di Sky e Mediaset, che possono avere prima nel loro come dire, offerte con i decoder, possono avere prima alcuni film rispetto al noleggio e soprattutto lo streaming. Pensa che lo streaming puro in teoria è disponibile dopo 6 anni dall'arrivo al cinema di un film. Poi si possono fare singoli accordi. Infinity ad esempio aveva la grande bellezza, cioè, ci sono esclusive. È chiaro che se arriveranno grandi player come Netflix e Amazon probabilmente si riuscirà un pochettino a sbloccare, magari per tutto il settore dei contenuti sarà interessante. Il Chromecast, se avrà diciamo una base installata importante, farà crescere il numero di utenti che richiede questo genere di distribuzione dei contenuti, e potrebbe essere una pressione nei confronti dell'industria dei contenuti. Sì, comunque lo possiamo definire un decoder, sostanzialmente, no? Un set-top box piccolino, un dangle, tanti nomi ho sentito definirlo. Sì, sentici, i concorrenti quali sono, principali? Allora, concorrenti veri e propri, con le stesse caratteristiche non ci sono perché costa molto poco, però diciamo che ovviamente si pensa all'Apple TV, con la tecnologia AirPlay fa di più di Chromecast, soprattutto sui contenuti, e la possibilità della duplicazione dello schermo è più funzionale. Costa 109 euro rispetto a 39 e 35 ed è vincolato all'ecosistema Apple. Chromecast invece per la trasmissione di file multimediali, foto, video, eccetera, ha una serie di applicazioni disponibili, quindi lavorandoci un po' qualcosa si riesce a fare. Poi l'altra tecnologia è la tecnologia Miracast, che è su praticamente tutti gli smartphone e tablet da Android 4.2 in poi. Se uno ha una TV compatibile, generalmente lo sono le più recenti di Samsung, Sony, LG e Panasonic, può trasmettere i contenuti da smartphone e tablet alla TV. C'è però il problema che non puoi fare il multitasking che dicevo prima è possibile fare con Chromecast, e quindi vedi esattamente quello che stai vedendo. Sì. Uno deve diventare esperto di questo mercato, perché, come dire, anche se la singola funzionalità è facile, orientarsi in questo ecosistema diventa un po' complicato. Assolutamente. Diciamo che il vantaggio è che possiamo iniziare a eliminare un po' di cavi che girano intorno alla TV con la chiavetta, sì, tipo Chromecast, sì, o altre soluzioni, o anche con l'Apple TV. Abbiamo eliminato i cavi, però c'è un'offerta complessa da capire. Il vantaggio di Chromecast è che anche l'usabilità e i menu di navigazione assomigliano finalmente a quelli degli smartphone. Le smart TV, soprattutto la prima generazione, era un po' complessa, adesso è migliorata. È un movimento, insomma, l'industria, sì, si sta muovendo. Sì, sicuramente è un passaggio che ci porta a unire i due mondi, quello televisivo più tradizionale al mondo internet, e fra un po', arrivederci, sarà tutto internet. Esatto, quella può essere una prospettiva. Esatto. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che la prossima settimana, a proposito di internet e prodotti televisivi, prodotti video, chiamiamoli così, anche se io vi consiglio sempre di ascoltare molta radio e guardare poca TV, però ogni tanto un bel film, un bel programma, una bella serie televisiva fa piacere, e quindi il mercato si sta veramente muovendo. Ci sono alcune novità in arrivo, ad esempio la prossima settimana verrà lanciato Sky Online, e quindi nella prossima puntata faremo una panoramica più completa per capire che cosa c'è sul mercato, quanto sono interessanti questi prodotti, quindi cercheremo un po' di fare il punto della situazione. Tra poco parleremo di Bitcoin, delle criptomonete, delle monete digitali, un tema di cui si parla molto oggi con David Orban, che è advisor alla Singularity University. Parleremo di questo cambiamento, che non è solo un cambiamento tecnologico, ma è un cambiamento anche della società, e quello che ci terremo a fare tra poco è far capire alcuni cambiamenti, e non tanto parlare solo di Bitcoin, che è uno degli aspetti di questo cambiamento in atto. Adesso parliamo comunque ancora anche di soldi, perché questa settimana Mastercard ha presentato in Italia un nuovo prodotto, una nuova soluzione che riguarda le banche, che riguarda altre carte di credito, una sorta di borsellino, di portafoglio elettronico. È un tema di cui si parla molto, quello dei wallet. Bene, è stato presentato Masterpass e ne abbiamo parlato con Paolo Battiston di Mastercard Italia e Grecia. Un wallet digitale che permette di fare pagamenti in modo semplice e sicuro nel mondo dell'e-commerce da qualsiasi dispositivo, quindi da PC, da tablet, da smartphone, in qualsiasi location, quindi a casa, in mobilità, in strada, piuttosto che all'interno di un negozio. Quando lei parla di wallet, traducendolo, parliamo di un borsellino elettronico, quindi ho il mio conto bancario, ho la mia, in questo caso, carta di credito. Che cosa ci sta dentro questo borsellino elettronico? Quindi noi lo chiamiamo un portafoglio, nel senso che è un contenitore di carte di pagamento. Tutte le carte di pagamento che possono funzionare su internet, quindi non solo le nostre, e quindi il cliente carica all'interno di questo portafoglio elettronico l'elenco delle proprie carte, definisce una preferita, carica anche e lo fa una volta sola, i vari indirizzi a cui potrebbe voler ricevere della merce acquistata su internet, e quando si trova su un sito di e-commerce clicca il bottone Masterpass in alternativa alla modalità di pagamento tradizionale con carta, e a quel punto, attraverso l'inserimento di una password e poi la conferma appunto del pagamento, con due clic è in grado di completare l'operazione di pagamento. Questo è molto importante già sul mondo della e-commerce tradizionale, fatto da PC e da tablet, in cui comunque il tasso di abbandono è l'elemento più critico per i commercianti, in quanto fa perdere alcune, diciamo così, opportunità di vendita quando l'operazione di pagamento è un pochettino complessa. È fondamentale invece su tutto ciò che è il nuovo commercio che si sta sviluppando sugli smartphone, in cui le modalità di pagamento tradizionali con la digitazione dei numeri delle carte, della scadenza e di altri codici di sicurezza, molto spesso in ambienti di mobilità diventa effettivamente sconveniente e complicato. Certo, scoraggiano l'acquisto. Esatto. Quindi il vantaggio fondamentale è che io utilizzo solo una password. Esatto, una password e tutto il trasferimento delle informazioni legato alla carta di pagamento che viene utilizzata e l'indirizzo di spedizione eventuale avviene in modo trasparente. Noi abbiamo fatto l'esempio del commercio elettronico. Se volessi disegnare un altro scenario, cioè quello del mio smartphone che viene utilizzato per pagare anche in un negozio, al supermercato, eccetera, eccetera, quindi in un luogo fisico, questo servizio può essere utilizzato anche per fare queste cose già oggi? Allora, la soluzione che è stata messa oggi sul mercato permette di fare pagamenti nel mondo online, ma questo tipo di tecnologia è in fase di sviluppo per poter consentire anche pagamenti attraverso altre forme, chiamiamole così, di terminazione finale, per esempio attraverso la tecnologia NFC per fare pagamenti presso i negozi abilitati di POS con questa tecnologia, piuttosto che anche in esercizi fisici che possono utilizzare anche la tecnologia dei barcode o dei QR code per poter anche qua voler completare le operazioni di pagamento. Quindi Masterpass è di fatto un contenitore di strumenti di pagamento in cui la banca gestisce le credenziali e mantiene la sicurezza e la privacy di queste informazioni, gestisce le credenziali di accesso a questo portafoglio, e dopodiché la tecnologia sottostante che viene utilizzata oggi ha delle forme, domani ne può avere delle altre, dopodomani ancora delle altre, perché, ripeto, in questo caso si tratta semplicemente della tecnologia di prossimità. E questa soluzione è aperta a qualsiasi tipo di tecnologia, anche se possa sviluppare nel futuro. Senti, le faccio un'ultima domanda relativa alla password. Oggi si utilizza la password per molti servizi, anche per questo. Potrebbe essere sostituita la password con un lettore di impronta digitale? Sappiamo che almeno due grossi nomi sul mercato, ma poi in realtà ce ne sono altri, se parliamo di smartphone, hanno come elemento di autenticazione, al posto di una password, la impronta digitale, il riconoscimento dell'impronta digitale. Sicuramente sì, la forma di autenticazione oggi viene scelta dalla banca che offre il servizio, può essere una password statica, può essere la password dinamica dell'home banking, può essere domani anche l'impronta digitale letta dagli smartphone che lei ha citato, che stanno uscendo sul mercato con questi tipi di lettori. Ricordiamo che questo servizio viene erogato dalla banca, quindi bisogna essere clienti della banca. Se la banca ci mette a disposizione questo tipo di servizio, si tratta di una evoluzione che per il momento viene proposta solo da BNL, da BPM, quindi Banca Popolare di Milano, e Banca Generali. Sono le prime tre banche che in Italia lanciano Masterpass. Per semplificare ulteriormente, perché poi magari a volte usandolo è molto più semplice che ascoltarlo alla radio, si tratta di una sorta di PayPal per le banche. Il concetto è quello: io all'interno del conto PayPal posso inserire tante carte di credito, ma poi quando utilizzo PayPal utilizzo solo una password per fare il pagamento, tenendo nascosto il numero della carta di credito, e PayPal gestisce questo passaggio. Beh, in questo caso è una cosa analoga. Masterpass gestisce appunto le carte di credito. Io inserisco quando pago solo un codice, solo una password, mentre non espongo sul negozio di commercio elettronico il numero della carta di credito, non solo per una questione di sicurezza ma anche una questione di semplicità. E poi queste soluzioni potranno essere aperte, ma dipenderà poi anche dalle banche ad altre evoluzioni, che ne so, il pagamento di prossimità con l'NFC. Arrivo in un negozio fisico, faccio passare il mio smartphone sopra un POS abilitato e pago molto semplicemente, oppure anche che ne so, pagamenti online e con, invece che la password, il riconoscimento dell'impronta attraverso gli smartphone che già lo permettono, quindi iPhone e l'ultimo smartphone di Samsung. Insomma, le possibilità sono moltissime. A proposito di possibilità e di frammentazione, di confusione, potremmo anche chiamarla così, di un mondo dei pagamenti digitali che si espande sempre di più, ed effettivamente se uno dovesse fare l'elenco delle proposte che oggi ci sono sul mercato sarebbe molto molto lungo. Allora, ne abbiamo parlato questa settimana con Peter Redshaw, che si occupa di banche di pagamenti digitali per Gartner, ospite di Abilab, che ha tenuto la propria conferenza annuale proprio nella sede del Sole 24 Ore questa settimana. Sentite che cosa ci ha risposto a proposito delle banche verso la sfida al mondo digitale e soprattutto dei pagamenti digitali. So I think in the next year we will see banks rapidly changing. Credo che il prossimo anno assisteremo ad un rapido cambiamento delle banche. Ciò che stanno facendo è sviluppare un po' troppe applicazioni e ne sono consapevoli. Stanno sperimentando varie cose. Molte cose che vediamo oggi non esisteranno più perché saranno cancellate l'anno prossimo perché sono un fallimento. Altre saranno invece un successo e le banche investiranno in queste. Quindi è un periodo caratterizzato da cambiamenti molto rapidi. It's a period that's characterized by really rapid change. I think that's what's disappearing is the era of the giant project. Credo che ciò che è finita sia l'era dei grandi progetti, quelli per la creazione di enormi applicazioni. Ci stiamo invece rapidamente dirigendo verso il concetto delle apps, non necessariamente solo per gli smartphone. But the idea being that an app will just do one or two things at most. Ma più che altro con l'idea che un'app possa fare al massimo una o due cose, con una funzionalità molto circoscritta. Gli utenti avranno bisogno di molte apps di questo tipo, e vi sarà un mercato dove scegliere e acquistare le apps in base alle proprie esigenze. Non necessariamente si tratta di innovazioni complesse, innovazioni che solitamente vengono sviluppate da soggetti terzi, magari in un garage, e che le banche acquisiscono e che rendono più semplici e veloci operazioni come controllare il proprio saldo, pagare le bollette, fare un bonifico. Ad esempio, pranziamo assieme, tu paghi il conto, io ti devo dei soldi e lo faccio subito, rapidamente, tramite un'app sullo smartphone, senza dover passare da tutta la macchinosa procedura di login tipica dei siti web delle banche. Lei è d'accordo se le dico che molto spesso l'innovazione non arriva dal settore bancario? Sì, lo credo, e credo anche che le banche siano consapevoli di dover prendere in considerazione qualsiasi idea da chiunque. La sfida per loro è quella di verificare che queste apps siano di alta qualità e che non compromettano lo standard dei loro servizi. E questo è esattamente ciò che faranno. Acquisiranno apps gratuite e pagheranno dei diritti ogni volta che queste verranno scaricate e utilizzate attivamente. Parliamo dunque di un mercato molto competitivo, dove le banche si porranno al centro e forniranno sia una piattaforma sulla quale le persone potranno sviluppare le innovazioni, sia la regolamentazione, i controlli, il supporto essenziale per il loro corretto funzionamento. Secondo lei grandi gruppi come Google, Apple, Facebook, eccetera, eccetera, faranno la banca, che ne so, anche gli operatori telefonici potrebbero fare la banca, quindi Apple Bank, Google Bank, Vodafone Bank, eccetera? We're kind of skeptical about that. So something we looked at a couple of years ago was, will your next bank be Amazon, Google, Facebook? We don't think it will. Siamo un po' scettici su questo. Un paio di anni fa ci si aspettava l'ascesa di banche di Amazon, Google o Facebook, ma non pensiamo che accadrà. Il motivo è che nel momento in cui si diventa una banca vera e propria, si deve ovviamente rispettare la normativa del settore. Ci sono molte seccature. Queste compagnie guadagnano bene dalla fornitura di servizi alle banche, senza essere di fatto delle banche. Inoltre dovrebbero gestire il rischio se fossero dei soggetti bancari, mentre al momento vengono solo pagate dalle banche e non sono esposte al rischio bancario. Già questi due aspetti sono dei disincentivi. Il terzo aspetto è che i clienti si fidano ancora fortemente delle banche. Non le amano, pensano che siano delle istituzioni antiquate, ma si fidano ancora di esse quando si tratta dei loro soldi. E questo è un aspetto che è stato citato anche da altri esperti. Le persone appunto criticano le banche, ma quando si tratta di soldi continuano ad avere una grande fiducia nelle banche, la stragrande maggioranza delle persone. Quindi sicuramente le banche avranno un ruolo molto importante anche nel sistema, nell'evoluzione del sistema di pagamento elettronico. Come ha detto Peter Redshaw, ci saranno cambiamenti molto forti nei prossimi anni, ma sicuramente le banche avranno un ruolo, dovranno sicuramente ripensarsi. A proposito di cambiamenti, a proposito di fattori esterni che complicano un po' le cose, visto che tra poco parleremo di criptomonete, di bitcoin e di monete digitali, abbiamo chiesto a Redshaw, che si occupa di banche all'interno di Gartner, che cosa ne pensa di questo grande sconvolgimento che, al quale stiamo assistendo. È un settore molto vasto. Abbiamo cominciato ad analizzare quello che abbiamo chiamato il futuro del denaro. E uno di questi è Bitcoin. In questo momento molto popolare, ma ci sono altre 20 o 30 valute digitali simili. Non so quale di questi due prevarrà, ma ci sono due indicatori che ci dicono che un'innovazione sta avendo successo. E su Bitcoin li vediamo entrambi. E sono: quando il governo inizia a mostrare interesse, visto che il sistema permette di evadere le tasse. E quando lo strumento può essere usato per ripulire denaro sporco, che è un altro aspetto che preoccupa. Insomma, quando governo e criminalità vengono coinvolti, si tratta di un successo. Beh, sicuramente interessante questa risposta. Naturalmente questo vale anche per la moneta normale. Con la moneta normale si possono evadere le tasse, quindi con la moneta digitale sta sempre nell'onestà delle persone, nella capacità dei controlli. Certo, in questo momento i controlli sono più difficili. Parleremo di monete digitali, di Bitcoin, tra poco. Questo è 2024. 2024. Questa settimana a 2024 parliamo di un argomento che molto probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori hanno approfondito negli ultimi tempi. È oramai un argomento di cui anche la stampa generalista, diciamo così, si è occupata, soprattutto per alcuni motivi dovuti all'andamento economico del Bitcoin. Parliamo di Bitcoin, di questa moneta virtuale, ma soprattutto vorremmo parlare anche dal punto di vista tecnologico di un cambiamento che è in atto, che è stato favorito e sarà sempre più favorito proprio dall'evoluzione tecnologica, dalla diffusione della tecnologia, dalla diffusione di internet. Ne parliamo con David Orban, che è amministratore delegato di .sub ed è advisor docente alla Singularity University e si occupa anche di criptomonete, potremmo dire così. Bentornato David. Ciao Enrico, ciao a tutti. Beh, innanzitutto diciamo proprio che il Bitcoin è una delle tante monete digitali, criptomonete. Come definire questa evoluzione che sta, non so se esplodendo, però dal Bitcoin poi sono nate tante altre monete digitali? È una innovazione fondamentale sia da un punto di vista informatico che matematico, con conseguenze economiche importanti. In passato ci sono stati tanti tentativi di creare delle nuove monete e, un po' come i sistemi di scambio di file a partire da Napster, che erano centralizzati e sono stati bloccati, e evolvevano per poi arrivare adesso a sistemi come BitTorrent che non possono più essere bloccati. Adesso siamo al punto con Bitcoin che questo nuovo sistema a livello planetario sta realmente prendendo piede, e coloro che lo osservano un po' con timore perché dominanti nei sistemi monetari tradizionali si stanno rendendo conto che non potrà essere fermato e quindi reagiscono con una osservazione del fenomeno che guarda verso una sua regolamentazione eventualmente molto leggera, riconoscendone la validità. Parliamo di Bitcoin, ma poi magari facciamo un accenno anche alle altre monete. Dal punto di vista tecnologico, io ho detto che tutto ciò è favorito dalla diffusione della tecnologia che costa sempre meno, dalla diffusione di internet. Sostanzialmente come funziona Bitcoin, ma come funzionano queste monete digitali? Assolutamente. Bitcoin si basa su due o tre elementi fondamentali senza i quali non potrebbe esistere. Il calcolo estremamente economico e diffuso, la presenza di computer o telefoni cellulari, le reti elettriche ed informatiche che le collegano e si basa su innovazioni matematiche nella cifratura, nella crittografia, e permette di trasferire un valore da un borsello elettronico ad un altro, dove questo trasferimento viene registrato in una tabella mondiale pubblica, dove l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo sono pubblici, anche il valore è pubblico. Quello che non è noto necessariamente, a meno che una persona volontariamente non lo divulghi, a chi appartengono i rispettivi borselli. Questa tabella pubblica mondiale, che si può consultare da tutti, è concatenata nelle varie transazioni in modo che non si possa falsificare, proprio perché, come in una catena, ogni elemento successivo dipende da quello precedente. E il lavoro di concatenamento di queste transazioni è un lavoro crittografico estremamente complicato che la rete mondiale di computer che partecipa a questo, a questa attività di gestione di Bitcoin realizza con un battito di cuore che ogni 10 minuti inserisce nuovi blocchi, nuovi elementi in questa catena. C'è all'interno del funzionamento di Bitcoin un meccanismo di premio che regala nuovi Bitcoin che nascono in quel momento e ai partecipanti a questo calcolo mondiale, incentivandoli così a continuare il lavoro di irrobustimento dell'intero sistema. Attualmente vengono regalati 25 bitcoin ogni 10 minuti, il tasso di cambio di bitcoin rispetto alle monete tradizionali fluttua in modo abbastanza forte in base alle richieste di mercato, attualmente vale, mettiamo, circa 500 euro, quindi è un regalo significativo. E infatti il valore complessivo dei computer che partecipano a questo calcolo per la gestione della rete mondiale è una rete molto molto importante. Non è esattamente noto il totale, ma si stima che abbia una potenza di calcolo e quindi un valore corrispondente superiore ai primi 500 supercomputer messi insieme. Quindi possiamo dire che tutto ciò nasce da una rete di computer distribuita e il controllo della diffusione di questa moneta è distribuito. Ti faccio una domanda sulla produzione. Nel mondo reale i soldi vengono prodotti dalle banche centrali attraverso gli istituti di conio. In Italia c'è la zecca, ogni paese ha il proprio stabilimento dove vengono coniate le monete. Con i bitcoin o con le altre criptomonete cosa succede? Questa è un'altra innovazione fondamentale che fa paura a molti. In realtà questa paura nasce più dall'ignoto che non da un qualcosa che è giustificato fondamentalmente. All'interno della rete di Bitcoin non esiste un'autorità centrale che controlla l'emissione della moneta. Questa decisione è delegata agli algoritmi che producono nuovi soldi. La assenza di questa autorità centrale fa sì che tra due persone che trasferiscono Bitcoin uno all'altra e non ci sia nessun intermediario. Contrariamente al passato, dove quando io ti do una banconota e tu la accetti, da una parte guardi che non sia falsa, dall'altra parte in effetti decidi a seconda di che tipo di banconota ti do se accettarla o meno. Se saranno dollari o euro lo accetterai, se saranno banconote emesse da banche centrali di nazioni dove c'è un'inflazione rampante, allora valuterai se la quantità di banconote che ti ho dato è adeguata o meno, o addirittura ti rifiuterai di accettarlo. E quindi i rapporti di fiducia sono molto diversi. Con Bitcoin è possibile fare affari tra persone, piccoli o grandi affari che siano, che non si sono mai incontrati e che non devono fidarsi né di uno dell'altro né di, appunto, di un'autorità centrale terza. Perché tu dici tutto è affidato alla matematica e quindi è sicuro. Il progetto è cosiddetto open source. I codici sorgenti di Bitcoin sono disponibili perché vengano osservati, valutati da tutti. C'è un gruppo di persone che partecipa al suo miglioramento. Naturalmente ci possono essere degli errori all'interno di questo codice, ma vengono rapidamente identificati, corretti, e tutto il sistema migliora con una partecipazione globale che la evolve. Se io conosco l'algoritmo, quindi posso coniare e produrre Bitcoin? Questa è la base della nascita delle monete digitali alternative che si stanno affiancando a Bitcoin con una esplosione. Oggi ce ne sono diverse centinaia addirittura, perché ognuno può copiare questo codice e dire io faccio l'Enrico Pagliarini Coin. E a quel punto la domanda solamente è qual è l'utilità di quella moneta, qual è la sua differenza e il valore aggiunto rispetto a Bitcoin da cui nasce e chi lo accetterà. Nel momento in cui tu sai dare una risposta a queste domande, la nuova moneta avrà una diffusione naturale, il suo tasso di cambio rispetto a Bitcoin o altre monete o anche rispetto all'euro avrà una sua certa dinamica e avrai in effetti fatto nascere una nuova moneta digitale. Questo non solo è possibile, ma sta avvenendo in molti casi e ci sarà naturalmente ci saranno esempi positivi e esempi negativi, ma è una sperimentazione interessantissima che non era affatto possibile prima. È un po' analogo come la nascita del computer ha reso tutti fotografi, cinematografi, ha reso tutti musicisti. Poi ci sono canzoni prodotte al computer che sono terribili. Ci sono musicisti come Moby che utilizzano il computer in una maniera innovativa e creativa che non era possibile prima. Sì, comunque diciamolo, cioè, dal punto di vista tecnologico io posso con un computer con una scheda grafica in molti casi molto potente, posso coniare monete, giusto? Quello a cui stai facendo riferimento è la cosiddetta attività di mining, cioè analogamente a come si estrae l'oro dalle miniere, così è possibile dedicare i computer perché partecipando al lavoro di cifratura mondiale delle tabelle di transazioni che descrivevo prima, possano mirare a ricevere il regalo inaspettato dei Bitcoin ogni 10 minuti. E qualche tempo fa questa attività poteva essere facilmente fatta con appunto i computer casalinghi. E l'algoritmo modifica la difficoltà della cifratura e oggi questo è arrivato ad un livello tale che è praticamente impossibile che il regalo dei 25 Bitcoin venga assegnato ad un computer di casa. Ci sono delle persone che giustamente investono molti soldi per dei data center di fatto dedicati a questa attività, quindi il mining di Bitcoin oggi non è più per i principianti, può esserlo in una nuova moneta, Però questo è un aspetto puramente speculativo che magari gli ascoltatori possono fare per una propria educazione sul tema, per approfondirlo, ma sicuramente non per attività economiche speculative o come investimento. Chiarissimo, questo è sicuramente molto interessante. Come succede per molti altri settori, che all'inizio sono per tutti, anche per i dilettanti, poi diventano per i professionisti. Senti, stiamo parlando di una cosa che da usare è facile o difficile? Perché, come dire, usare i soldi è molto facile, quelli fisici tradizionali. Già usare i soldi tradizionali, ma attraverso pagamenti elettronici, quindi attraverso le carte o attraverso sistemi elettronici su internet, per alcune persone è un po' più difficile. In questo caso stiamo parlando di una cosa facile da utilizzare o ancora per pochi? Anche i soldi tradizionali devono, passano attraverso una fase in cui ogni persona impara come usarli. Magari succede da bambini, ci insegnano vai a comprare una mela e quando torniamo con il resto i nostri genitori sono orgogliosissimi del fatto che abbiamo capito un po' i principi dell'utilizzo, della moneta tradizionale. E in Bitcoin, in realtà, siamo ancora al livello dove anche quelli che se ne occupano fanno fatica a semplificare sufficientemente le cose perché chi non ha voglia di diventare uno specialista riesca effettivamente a fare le cose al meglio. C'è bisogno ancora di migliorarne l'utilizzabilità dal punto di vista delle interfacce che devono essere più facili. C'è da migliorare tutti i servizi a contorno. Se tu vai in un qualunque negozio di pelletteria, puoi comprare un borsello in cui inserire le banconote e magari un suo taschino per le monetine. Analogamente, ci sono i borselli elettronici per tenere i bitcoin. Se non che, quando tu perdi il tuo borsello tradizionale, ti rendi conto del pericolo, ti rendi conto che cosa devi fare, le attività di effettuare le copie di riserva dei nostri dati e di verificare che le copie di riserva si possano ripristinare sono molto più spesso trascurate. E adesso che con Bitcoin avremo centinaia, migliaia o anche volendo milioni di euro di valore sui nostri computer, questo sarà molto più cruciale e dovrà essere una cosa robusta, affidabile. E infatti si stanno sviluppando servizi sia cloud per tenere Bitcoin presso terzi fidati a questo punto che li preservano, sia addirittura attività che in inglese vengono chiamati cold storage, di immagazzinamento al freddo, dove i Bitcoin sono alla fine su dei pezzi di carta all'interno di tradizionali depositi fidati, presenti fisicamente, non più elettronicamente. E questo insieme di servizi evolve per supportare l'ecosistema di Bitcoin con applicazioni sempre più sofisticate che ognuno di noi si abituerà ad utilizzare. Il modo più facile per comprare Bitcoin è attraverso un servizio che si chiama Local Bitcoins, dove o attraverso un trasferimento bancario, incontrando direttamente la persona, puoi dare euro e in cambio ricevi Bitcoin tipicamente sul tuo telefonino, sul tuo smartphone. Oppure in alternativa effettuare servizi che vengono pagati in Bitcoin o vendere prodotti che vengono pagati in Bitcoin. Esatto, già oggi ci sono molti servizi, molti negozi online che accettano, non solo online, anche offline, che accettano pagamento in Bitcoin. Naturalmente non ci addentriamo sulle dinamiche economiche, macroeconomiche di questa moneta. Questo è un programma che si occupa di tecnologia. Però facciamo comunque una considerazione su le tante persone che sono scettiche di fronte a queste monete, anche sentendo le notizie recenti di truffe. Io di fronte a questo dico sempre, beh, le truffe siamo abituati a commentarle e a conoscerle molto bene nel mondo reale, quindi non mi stupisco più di tanto. Però effettivamente lo scetticismo è molto diffuso, David. Allora, c'è sempre da osservare cui prodest, a chi fa comodo creare incertezza attorno a Bitcoin. È un'attività oggettivamente utile oppure tende a preservare l'esistente? Perché molte industrie hanno visto cosa è successo con Amazon alle librerie in America, dove la seconda più importante catena è fallita chiudendo 400 librerie in tutta la nazione, la prima ha un valore di fatto di meno un miliardo di dollari, sopravvive solo grazie ad aiuti di altre aziende più forti che lo sostengono, o hanno visto cosa è successo con la discografia mondiale sconvolta dalla disponibilità di MP3, di lettori e dalla vendita di musica online. Sconvolta, trasformata in qualcosa di nuovo dove i protagonisti precedenti non necessariamente sono più quelli nuovi. E quindi siano banche o istituzioni finanziarie, le società di carte di credito, le società di remissioni internazionali, che è un'industria da 600 miliardi di dollari rispetto a tutti gli immigrati che mandano soldi a casa, tutte queste realtà hanno ragione a osservare Bitcoin con estremo sospetto perché rappresenta una minaccia per il loro modello di business. Quello che sta accadendo è che giustamente le autorità di regolamentazione in tutti i paesi del mondo stanno dicendo che è un fenomeno nuovo che prima sembrava di essere di nicchia, si sta diffondendo sempre di più, dobbiamo capire se sono sufficienti le regolamentazioni già esistenti per la sua gestione oppure c'è bisogno di emanarne di nuove, e i consumatori devono essere tutelati rispetto a quello che succede. Se io faccio un'attività tradizionale di cambiavalute, avrò le regolamentazioni che si applicano su quello che faccio. Se lo faccio con Bitcoin, non devo sorprendermi se succede altrettanto. Tra i proponenti di Bitcoin originari ci sono persone convinte che lo Stato sempre rappresenti qualcosa di malefico e questi, a partire dai loro ideali, ritenevano che Bitcoin dovesse essere esente da una qualunque regolamentazione. In realtà questo va contro una diffusione capillare di questa soluzione che non potrà e non sarà esente dalla regolamentazione, quindi l'osservazione accurata di quello che comporta il suo utilizzo è assolutamente giustificata e corretta. Lo scetticismo è una questione di scelta personale. Una persona che è scettica del cinema 3D non va a vedere i film 3D. Una persona che è scettica di Bitcoin oggi non sperimenta l'utilizzo di Bitcoin. Contrariamente al cinema 3D, è possibile, non è garantito, ma è possibile che Bitcoin abbia in futuro una diffusione talmente capillare che ad un certo punto anche questi scettici diranno ok, lo devo adottare. Un po' come il telefonino, oggi non c'è nessuno, inclusa mia madre, che se ne potesse fare a meno lo farebbe volentieri, ma non c'è nessuno che dice ok, assolutamente non uso il telefonino, anche se magari erano dubbiosi sulla sua utilità in passato. Sì. Chiudiamo con una considerazione relativa a internet e la società. Probabilmente Bitcoin è uno dei tanti fenomeni che appunto gli scettici o quelli che non sono attenti all'evoluzione tecnologica non comprendono ancora appieno, però è sicuramente un fenomeno, come direbbero gli americani, disruptive, dirompente, che sta cambiando molte dinamiche, adesso molto sotto traccia, ma molto probabilmente nei prossimi anni in modo più evidente. Che cosa possiamo dire in generale su questo cambiamento della società creato da Internet? L'invenzione di Bitcoin non solo è qualcosa che nasce dalla presenza degli elementi come appunto internet, l'elettricità, gli smartphone, la cifratura matematica robusta, i progetti open source, ma addirittura appartiene ad una grande ondata di cambiamento di fase sociale che vede la trasformazione fondamentale da sistemi gerarchici centralizzati a sistemi distribuiti senza autorità centrali che definiscono il da farsi necessariamente. Altri esempi di queste trasformazioni li possiamo elencare rapidamente: la produzione di energia, che attraverso l'energia solare è naturalmente e necessariamente distribuita, e l'apprendimento, che con i corsi online vede lo sconvolgimento del funzionamento delle istituzioni tradizionali. La manifattura, che con la stampa 3D può mirare ad una produzione distribuita e ad hoc invece che grandi tirature attraverso fabbriche enormi centralizzate. Addirittura il campo della sanità, dove il movimento del cosiddetto quantified self, la misurazione del proprio stato di salute che responsabilizza l'individuo, pone l'attenzione sul mantenimento della salute invece di appunto mandare tutti all'ospedale quando si è ammalati ed è troppo tardi. Sono fenomeni enormemente potenti, molto importanti, all'interno dei quali appunto la trasformazione radicale del mondo dell'economia e della finanza data da Bitcoin e dalle altre valute digitali moderne si inserisce in modo da essere di fatto impossibile da fermare. Quindi la società deve interrogarsi quale sarà questo nuovo mondo disegnato dai sistemi distribuiti, come gli stati-nazione, come le amministrazioni, come i sistemi politici dovranno adattarsi a qualcosa che appunto non potranno fermare. Bene, io ringrazio David Orban per essere stato con noi. Buon lavoro, grazie, e anche buon viaggio, visto che sei spesso in giro per il mondo. Grazie a te. Chiudiamo questa puntata di 2024 con una breve anticipazione di quello che troveremo domani su Nova Il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione che trovate domani in edicola. Assieme al Sole 24 Ore, Pierangelo Soldavini, bentornato 2024. Benvenuti a tutti. Dunque, partiamo sempre dalla copertina. Che cosa l'avete dedicata? Dunque, parliamo di un tema che riguarda un po' tutti, di banda ultra larga, per cui internet ad altissima velocità, la nuova generazione di internet che purtroppo in Italia è ancora abbastanza una chimera. Poco ultra. Poco ultra e molto, molto lenta. In effetti abbiamo forse la rete più lenta d'Europa. Ecco, per farla diventare più veloce, cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbero ovviamente degli investimenti di abbastanza ingenti, che dovrebbe essere a livello pubblico e che al momento non si vedono. E a meno di cambiamenti, la strategia che viene adottata dai principali operatori è quella di rafforzare il doppino, per cui il doppino di rame, il vecchio doppino di rame della struttura telefonica, della rete telefonica, e quindi si stanno sviluppando delle tecnologie che permettono sempre di più di far andare ad altissima velocità internet sul doppino telefonico, sul famoso ultimo miglio che dall'armadio di strada, dove dovrebbe arrivare la fibra ottica, esatto, arriva dentro la casa all'utente finale. Esatto, ed è come abbiamo detto anche in alcune delle ultime puntate di 2024, gli operatori spacciano questa nuova tecnologia che punta sempre al doppino di rame come fibra, lo dicono in modo un po' sottile senza fare riferimenti precisi, ma quella è, l'abbiamo detto più volte, una bugia. Quindi ancora in tutta Italia, diciamo nel 95% dei casi, quella che viene spacciata per fibra è una fibra che si avvicina a casa ma poi utilizza ancora il rame. Cioè, insomma, c'è una strettoia finale che si cerca di potenziare, ma alla fine è sempre. Esattamente, ma insomma, questo gli ascoltatori di 2024 lo sanno e lo conoscono bene, perché questo è uno dei nostri cavalli di battaglia. Serve invece la fibra fino a casa. Tutto quello che stanno facendo gli operatori lo fanno perché sono i loro conti economici che soffrirebbero facendo fibra, invece lo Stato dovrebbe intervenire in modo molto più preciso, molto più serio, facendo un'infrastruttura nazionale. Ma di questo, insomma, abbiamo fatto puntate. Se ne è parlata lungo. Che cosa avete invece messo nel paginone centrale, dove usate anche molta infografica, come sì, si dunque, dice? Sì, dunque, nel paginone centrale parliamo di un argomento che fa paura a molti, scorie nucleari. Ah, sì, sì. Forse non tutti sanno che la nostra avventura nucleare, che è finita ormai da tempo, in seguito al referendum e alla chiusura delle centrali nucleari, non è però finita dal punto di vista delle scorie. Esatto. Per cui i materiali radioattivi sono ancora presenti all'interno delle centrali o in depositi temporanei, e per la normativa UE entro l'anno dovremo decidere un sito unico nazionale dove stoccare questi materiali, ma non soltanto questi, perché questa è una parte. Poi dopo ci sono tanti materiali che ogni anno vengono prodotti, che hanno una loro radioattività. Sì, molti materiali, dal settore sanitario. Molti esempio, dal settore sanitario, ma per esempio anche dalla ricerca, perché certo, la ricerca va avanti, da produzioni industriali di cui magari non sappiamo, ma c'è per esempio un particolare scocciatore, un dispenser di scotch, un modello particolare che contiene delle parti radioattive. Oppure sensori antifumo vengono utilizzate le parti radioattive, e quindi quelle devono essere smaltite. Oppure, tanto per dare un'idea di dove si infila materiali nucleari, nei parafulmini degli impianti condominiali, così c'è una pallina che poi deve essere smaltita. E quindi sono tutti materiali che annualmente devono essere smaltiti, cementificati, messi in un deposito e lasciati lì per centinaia di anni. Bene, grazie Pierangelo, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Noi chiudiamo qui questa puntata di 2024, la versione podcast con le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. La prossima settimana tornerà Gianfranco Giardina per parlare di TV e internet, visto che stanno nascendo nuovi servizi. Dopo essere arrivato in Italia, nato in Italia, Infinity di Mediaset, è la volta di Sky Online. Se ricordate, tutte queste notizie sono notizie che avevamo ampiamente anticipato alcuni mesi fa, perché già nel mercato si parla da tempo di questi servizi. Quindi la prossima settimana, a metà della prossima settimana, verrà lanciato il servizio di Sky per vedere contenuti solo ed esclusivamente su internet. Poi vedremo, insomma, quali saranno anche i prezzi di questo servizio, spiegheremo quali sono le differenze con le altre offerte. Poi il 31 di marzo verrà lanciato Anika On Demand, altro servizio. In questo caso non si tratta di un servizio su abbonamento, dopodiché si possono guardare tutti i contenuti, si tratta proprio di un servizio cosiddetto à la carte. Io scelgo un film, lo pago e poi insomma, quando ne scelgo un altro, pago quell'altro contenuto. Faremo una panoramica su questi servizi. Se volete inviarci le vostre domande, considerazioni, qualsiasi altro messaggio, 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione. Appuntamento a tutti, alla prossima settimana. 2024.